È stato un anno difficilissimo, di grandi preoccupazioni e anche molto doloroso sapere Patrick in prigione e secondo tutti noi ingiustamente è stato difficile senza di lui, anche se la sua presenza, assenza è stata costante, sia per gli studenti e le studentesse del master in cui è Patrick, sia per gli altri compagni e compagne delle classi che lui ha frequentato. C'è stata una grande generosità e una grande preoccupazione verso di lui. E quindi un impegno di tutte e di tutti, anche degli studenti, delle studentesse, dei colleghi e delle colleghe, del rettore dell'università, delle altre parti. Credo che Patrick, proprio perché è lo studente che è, ma proprio per il suo impegno, per la sua passione, la sua serietà nei confronti dell'inclusione sociale, del rispetto delle diversità, per le questioni di genere, per le diverse culture, sia importante che venga sostenuto e forse anche un esempio di come si mette insieme lo studio e la pratica quotidiana. Quest'anno è stato segnato anche da tanti sforzi congiunti da parte di studentesse e studenti, da parte dell'università, da parte delle istituzioni per cercare di chiedere appunto la scarcerazione e la liberazione di Patrick. Le chiederei anche una valutazione, insomma, di tutti questi sforzi e secondo lei che cosa si potrebbe fare di più? Questa è un'altra domanda costante che tutte le istituzioni, almeno quelle che io conosco, con cui sono venuta a contatto, l'università, le altre università, anche del consorzio del Master Gemma di cui faccio parte, ci siamo sempre posti. Cosa possiamo fare? Cos'è giusto fare? Cos'è anche efficace fare? E quali sono i diversi ruoli che le istituzioni hanno e debbono avere in questa, nella condizione di Patrick e nella vicenda di Patrick? È un pensiero costante. Credo che l'Università di Bologna per prima, la città di Bologna in maniera molto forte, tutti voi che vi occupate di comunicazione, siano state fondamentali per mantenere viva l'attenzione e quindi, almeno per quanto pensiamo e sappiamo dagli amici di Patrick, che sono serviti a mantenere anche la grande speranza in lui e anche probabilmente ad avere condizioni un po' più seguite all'interno della sua situazione. Certo, credo che dal punto di vista dei cittadini e delle cittadine, di tutte le persone, ci sia stata davvero una mobilitazione grandissima che forse nessuno si aspettava così potente e così bella e così sentita, così partecipe. Credo che ogni istituzione, per quello che è, ogni organismo debba fare la sua parte, la debba fare fino in fondo. Credo che ancora di più, dopo un anno, si debba chiedere un intervento forte nei confronti di questa vicenda. Ognuno nel suo ruolo e per la sua parte. Credo che l'università, per la sua parte, abbia fatto davvero tanto, cercando sempre di sostenerlo, sostenendo Patrick, sostenendo tutti gli studenti e le studentesse che difendono la libertà di parola, i diritti della persona, e il rispetto e anzi il sostegno ai soggetti più deboli e più marginalizzati. Rispetto a quello che si potrebbe fare, che si progetta di fare e continuare a fare quest'anno, le chiederei se, insomma, c'è già qualche idea. Ma sono uscita ancora già sulla stampa e sono contenta di riferirlo anche a voi che avete sempre avuto un impegno molto forte per Patrick e per queste situazioni. L'8 c'è da parte di Unibo una manifestazione, un evento importante che vede partecipare anche i sindaci delle città che gli hanno dato conferito la cittadinanza onoraria, le studentesse e gli studenti che leggeranno delle lettere che sono arrivate a Patrick sull'indirizzo email dedicato a lui, è una lettura del lettore, è una credo finale richiesta di prendere in seria considerazione la condizione di Patrick che da un anno è incarcerato in attesa di giudizio. Anche questo è un punto importante. Patrick vive in una continua incertezza, non è soltanto una questione di vulnerabilità già grandissima, ma anche di precarietà continua in cui viene rimandato il momento in cui gli verrà e dovrebbe venirgli, diciamo così, resa giustizia all'interno di un percorso così del processo. Quindi credo che sia un discorso anche di richiesta di libertà e di giustizia. La sentiamo oggi in qualità di coordinatrice del Gemma del corso di cui fa parte anche Patrick. Patrick è anche uno studente internazionale che da un anno a questo punto chiede anche di poter tornare a studiare. E questo è un punto per noi importantissimo. È parte del sostegno, è anche legato alle sue continue richieste di poter finire i suoi studi, che per lui sono molto importanti. Chiediamo infatti fortemente che possa tornare a studiare, che possa portare a termine il suo percorso di uno studente serio, uno studente, come diceva lei, internazionale e anche di Bologna, perché ha scelto Bologna come prima sede. Lo aspettiamo davvero perché è molto importante per Patrick, sentiamo che sia un'ulteriore fonte di preoccupazione per lui non poter finire. Noi il supporto per lui c'è sempre, speriamo che venga presto riempito da lui e che possa continuare davvero a finire questo percorso che lui ha scelto e per cui siamo tutti contenti che sia con noi e con i suoi colleghi e le sue colleghe. Ecco sì, insomma, speriamo davvero con tutto il nostro cuore che possa tornare per tante ragioni e tra questa forse una delle prime che possa davvero continuare questo percorso di studi, di pensiero critico, di realizzazione della sua formazione.